L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Benvenuti, siamo pronti con le sette notizie più importanti dell'ultima settimana, cominciata sabato scorso 11 ottobre e che si è conclusa ieri 17 ottobre. I servizi, le interviste e i commenti sono come sempre andati in onda nei GR di Radio 24. Sabato. L'Italia di Lippi, parliamo di calcio, pareggia 0-0 a Sofia contro la Bulgaria nelle qualificazioni mondiali. Ma la notizia purtroppo non è questa. Qualche ultras infatti, o presunto tale, si fa riconoscere anche all'estero. Sentiamo Maria Luisa Pezzali e poi il commento di Carlo Genta. Prima una rissa appena sfiorata in un bar del centro, poi all'interno dello stadio il tentativo di scontro con i tifosi rivali bloccato dalle forze di polizia bulgare in tenuta antisommossa. Il tutto tra canti del ventennio fascista e un corteo nelle strade scandito da Duce Duce. Così Bulgaria-Italia è diventata il pretesto per l'alleanza tra ultrafascisti italiani e bulgari del Levski Sofia contro i tifosi del CSKA, l'altra squadra della città che vantano simpatie comuniste. Un centinaio gli italiani protagonisti dei tafferugli ultra della destra provenienti da diverse città, specie del nord-est. Rapido l'intervento della polizia locale così da evitare il peggio, nessun ferito e nessun fermo. A fare da corollario al tutto la triste scena durante l'inno di Mameli prima della partita, fischi dai tifosi bulgari all'Italia campione del mondo, braccio teso dagli ultra italiani. Idioti d'Italia, e noi li ringraziamo perché hanno aggiunto all'album della nostra depravazione calcistica l'ultima figurina mancante, feccia da curva in maschera tricolore con bordo nero nazi. Ora abbiamo proprio tutto, completo. Poi ci sono anche i supplementari, Lippi che tuona non accada mai più e tutti come logico che la buttano in politica. Imperdibile a proposito il duetto La Russa Storace. Anche se di sorprenderci abbiamo smesso da un po', è con una certa curiosità quasi scientifica che ascoltiamo Domenico Mazzilli, direttore dell'Osservatorio del Viminale sulle manifestazioni sportive. Dice, i cori Duce Duce e il braccio teso durante l'inno di Mameli? Ma in Bulgaria non è reato. Ma parliamo anche dei fischi al nostro inno. Anche quelli non sono reato, ma se mi permettete, non sono educazione. Infatti, caro dottor Mazzilli, deteniamo il copyright datato 1990, finale dei mondiali, eppure recenti repliche, San Siro, Italia-Francia, poco più di un anno fa. Se invece ne facciamo una questione di reati, ci sono paesi nei quali la pena per l'adulterio è a tutt'oggi la lapidazione. Insomma, dipende da dove ti porta a giocare il calendario. Lo spettacolo dei tifosi italiani in Bulgaria non passa inosservato e scatta subito una lunga scia di commenti. Parla Lippi, parla il presidente del CONI Petrucci che dice che si tratta di un fatto naturalmente gravissimo. Parla anche Renzo Ulivieri che è presidente dell'Asso Allenatori e invoca tolleranza zero. E mentre i saluti romani purtroppo spopolano anche nelle partite negli stadi di Serie B, lunedì scattano i provvedimenti del governo. Sentiamo Paolo Panceri. Contro i tifosi italiani, protagonisti dei cori razzisti durante Bulgaria e Italia, le autorità si apprestano a usare la mano pesante. Infatti il ministro dell'interno Roberto Maroni ha annunciato che agli ultra verrà inflitto il DASPO, cioè l'interdizione dagli incontri. E immediate contromisure sono state annunciate anche dal presidente dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive, Domenico Mazzilli. Non solo, ma anche contro il fenomeno della violenza negli stadi, anche la Federcalcio estrae il cartellino rosso. Infatti il presidente Giancarlo Abete ha confermato che la FIGC non chiederà più biglietti per le partite dell'Italia all'estero fin quando non verranno individuati i responsabili. Ma la sospensione dei biglietti per le trasferte degli azzurri non è condivisa da tutti gli esperti di violenza negli stadi, come spiega Carlo Balestri, responsabile del progetto Ultra dell'Unione Italiana Sport per Tutti. No, io credo che sia un'altra la strada, casomai fare anche delle politiche educative, in questo caso anche per il tifo della nazionale, per far sì che sempre più gente vada a supportare la nazionale, magari con meno caratteristiche di violenza. Bisogna dire che non ci sono soltanto gli italiani a distinguersi per i fischi e per i cori completamente fuori luogo allo stadio. Partiti per esempio anche la Marsigliese viene fischiata prima di Francia-Tunisia, quindi l'inno francese sotto assedio. Il governo francese reagisce duramente e Sarkozy chiede addirittura l'immediata sospensione della partita di calcio se partono i fischi, ma l'UEFA, che è guidata da un altro francese, peraltro illustrissimo, Michel Platini, dice no e parla di misura difficilmente praticabile. Sul piano meno inclinato per fortuna del calcio giocato, bisogna ricordare invece che l'Italia mercoledì gioca contro il Montenegro. A Lecce vince 2-1 e Lippi raggiunge il record straordinario di Pozzo, il mitico allenatore dei due mondiali e dell'Olimpiade vinti negli anni 30. Lippi come Pozzo eguaglia il record di 30 partite senza sconfitte. Giovedì invece Luciano Moggi parla durante il processo che lo vede imputato, il processo Gea. Dice: ho portato 10 giocatori e anche l'allenatore alla nazionale e ho fatto vincere il mondiale all'Italia. Chiamato in causa, Lippi commenta: non ci vedo nulla di male, noi ci limitiamo a non commentare. Lasciamo ora il calcio e facciamo un passo indietro la domenica scorsa alla Formula 1, che in Giappone regala ancora una volta emozioni e colpi di scena. La cronaca di Dario Ricci. Caos e spettacolo nel Gran Premio del Giappone di Formula 1. Al Fuji vince Fernando Alonso davanti a Kubica e Raikkonen. Massa ostacolato al via da Hamilton, poi penalizzato, e prima a sua volta penalizzato per un contatto con Kovalainen. Poi, ottavo al traguardo, il ferrarista diventa settimo per la penalità inflitta al francese Bourdais, che lo aveva tamponato. Alla fine Massa porta da 7 a 5 punti il distacco in classifica proprio da Hamilton, solo dodicesimo. È stata una gara molto difficile, complicata, un casino in certe parti, però di tutto quello che è successo fare i punti è stato importante. A Bourdais non c'è tanto da parlare, perché io stavo facendo la curva dove mi ha buttato fuori, mi ha girato. E Alonso ora potrebbe diventare prezioso alleato di Massa nella volata mondiale. È vero che io, dopo soprattutto quello che ho vissuto l'anno scorso in McLaren, voglio che la Ferrari vinca. Se posso aiutare Massa in quest'anno, farò il massimo. Domani c'è il Gran Premio di Shanghai, penultima gara del Mondiale. Occhi puntati naturalmente sul duello Massa-Hamilton e quello tra Ferrari e McLaren. Chiudiamo questa pagina di sport parlando invece di uno degli sport più tormentati degli ultimi anni, il ciclismo, che si appresta a riaccogliere, chissà poi se controvoglia, uno dei suoi più grandi e discussi campioni. Sentiamo Dario Ceccarelli. Hello to all my friends in Italy. I have to tell you I'm so excited to be coming to the 2009 Giro d'Italia. Amici italiani, sono molto felice di annunciarvi che nel 2009 parteciperò al Giro. A volte ritornano. Lance Armstrong, 37 anni, vincitore di 7 Tour de France e di un cancro che lo colpì nel pieno della carriera, torna a correre a 3 anni dal ritiro. Un ritiro anticipato anche per sospetti di doping che aveva fatto discutere. Come farà discutere questo suo rientro? Non è il primo campione che ci prova. Purtroppo, al di là della gran cassa mediatica, questi tentativi hanno spesso il sapore di una minestra riscaldata. Per il competitivo Armstrong, però, che non farebbe vincere le biglie neppure il figlio, il rischio è minore. Di certo darà impulso alla sua fondazione. Angelo Zomegnan, direttore del Giro d'Italia. Ha visto nell'Italia e negli italiani i trampolini di lancio o di rilancio della sua fondazione per la lotta al cancro, che si chiama Live Strong. Comunque, per i 100 anni del Giro è un bel botto. Lo aspettiamo al varco, sperando che il suo ritorno al futuro non ci cancelli bei ricordi del passato. Su Armstrong sono già partite le scommesse, c'è infatti Unibet che quota 1,60, quindi una quota piuttosto bassa, la possibilità che il texano non vinca neanche una tappa al prossimo Giro d'Italia. Intanto giovedì giunge una nuova notizia scioccante dal ciclismo, infatti il Giro di Germania dell'anno prossimo viene annullato. Troppi sono i casi di doping e di conseguenza troppe le difficoltà per trovare degli sponsor. In contemporanea le TV tedesche decidono di non trasmettere il Tour de France del 2009. C'è decisamente di che meditare. L'ottavo giorno. Domenica. Il fulcro a cui gira tutto intorno, nel bene e nel male, in questo periodo storico è sicuramente l'economia, la crisi da cui faticosamente Stati Uniti ed Europa stanno cercando di uscire. Domenica scende in campo direttamente l'Unione Europea, come ci racconta da Parigi Attilio Geroni. Ecco la cassetta degli attrezzi preannunciata sabato da Angela Merkel e adottata dai 15 paesi che aderiscono all'Eurozona. Secondo una bozza del documento finale preparata dalla presidenza francese, i 15 si sono messi d'accordo per dotarsi di una strategia comune fondata su due capisaldi: la ricapitalizzazione delle banche in difficoltà e la garanzia pubblica su tutti i prestiti interbancari. Quest'ultima è la misura più urgente per gli istituti di credito europei, in buona parte afflitti dalla paralisi di liquidità e non tanto, come le banche americane, dal rischio di insolvenza. Lo schema di garanzie pubbliche durerà fino alla fine del 2009 e coinvolgerà qualsiasi strumento di rifinanziamento sul mercato interbancario, anche sul medio e lungo termine, per titoli di debito con una scadenza che può andare fino a un massimo di 5 anni. I capi di Stato e di Governo dell'Eurogruppo auspicano inoltre la creazione da parte della Banca Centrale Europea di un meccanismo per l'emissione di commercial paper destinati non soltanto alle banche ma anche alle imprese. Le linee che vengono dettate dall'Unione Europea trovano subito applicazioni, o perlomeno c'è subito chi vi si accoda. L'Italia, per esempio, ma anche gli Stati Uniti nel giro di pochissimi giorni. Riascoltiamo dunque Vincenzo Miglietta sul Consiglio dei Ministri di lunedì e poi Sergio Nava sul piano presentato da Bush martedì. Prima le garanzie per il sistema finanziario, poi nuove regole contabili. Il ministro dell'Economia Tremonti detta l'agenda delle priorità per uscire dalla crisi. Lo fa presentando il decreto che recepisce le misure approvate in sede di Eurogruppo. Il piano cosiddetto salva banche, spiega Tremonti, non modificherà i saldi della finanziaria e prevede l'intervento dello Stato laddove vi siano rischi per la stabilità del sistema. L'intervento pubblico può spingersi fino al commissariamento della banca in presenza di situazioni in grado di minare la stabilità complessiva del sistema finanziario. Lo Stato garantirà i depositanti degli istituti italiani per 36 mesi e le nuove passività delle banche con durata fino a 5 anni. Si potranno poi scambiare titoli di Stato con i bond delle banche, dice ancora Tremonti, che sulle entità degli interventi poi spiega. Quanto sarà necessario? Non è un fondo, è costruito come strumenti da che entrano in azione caso per caso. Sarà più facile per le banche avere garanzie e liquidità, aggiunge il governatore della Banca d'Italia Draghi. Il taglio minimo per le garanzie da mettere, da prestare come collaterale per ottenere fondi diminuisce da 1 milione di euro a 500.000 euro. In altre parole, diventerà più facile prestare garanzie. Ci aspettiamo che le banche abbassino i tassi dopo il taglio della BCE, conclude il governatore. Quello che noi ci aspettiamo è che le quotazioni sull'Euribor scendano sotto il 5%, perché questo chiaramente è una delle cose più importanti per tornare a creare liquidità su un mercato dove le scadenze si sono molto ravvicinate. Today I'm announcing new measures America's taking to implement the G7 action. Il modello europeo contagia gli Stati Uniti. Dopo lo storico Eurogruppo di domenica sera, il presidente americano George Bush ha annunciato che il governo federale utilizzerà 250 miliardi dei 700 messi a disposizione dal maxi piano di salvataggio per stabilizzare il sistema finanziario, acquistando assetti e azioni all'interno degli istituti di credito in difficoltà. Le autorità federali garantiranno inoltre ogni nuovo debito emesso dalle banche per i prossimi 3 anni. We must restore trust to our finances. Il nuovo pacchetto Bush ha anticipato di poche ore l'annuncio di un piano economico del candidato repubblicano alle presidenziali John McCain, pari a 52 miliardi e mezzo di dollari. McCain ha proposto riduzioni fiscali sui piani pensionistici, oltre a un dimezzamento della tassa sui guadagni in conto capitale. Il tutto mentre al di qua dell'Atlantico si prepara per domani una proposta della Commissione europea che aumenterà la soglia minima di copertura dei depositi bancari in Europa a 50.000 euro e dopo un anno a 100.000 euro. Imporrà un massimo di 3 giorni di ritardo per ricevere i versamenti dagli istituti colpiti dalla crisi e porrà fine alla corresponsabilità tra banca e risparmiatore per le perdite dovute a investimenti in titoli a rischio. Il commissario McCreevy chiederà infine una revisione delle regole contabili degli istituti finanziari europei. Intanto arrivano dati e analisi di sofferenza della nostra economia. Confindustria, per esempio, rivede al ribasso la crescita economica per il 2008 e per il 2009. Il prodotto interno lordo dice calerà quest'anno dello 0,2% e dello 0,5% l'anno prossimo. Di fatto la probabilità di ripresa nel 2009 appare ormai praticamente nulla. L'inflazione invece scende a settembre al 3,8%, ad agosto era al 4,1%. Mercoledì tocca a Banca Italia pronunciarsi, sentiamo Vincenzo Miglietta. È un'economia pressoché ferma, con gli obiettivi di deficit a rischio e il consumo delle famiglie in calo, quella messa in evidenza dalla Banca d'Italia. Incoraggiante invece il segno positivo per le entrate dello Stato. Via Nazionale parla di sostanziale ristagno per il PIL relativo al terzo trimestre, che seguirebbe così la contrattura di inizio anno, inflessione in particolare a settembre la produzione industriale. Il deterioramento del quadro macroeconomico, si legge nel bollettino di Banca Italia, potrebbe influire negativamente sugli obiettivi di deficit. Determinante sarà il contenimento della spesa. Il capitolo inflazione, il costo della vita dovrebbe continuare a calare nei prossimi mesi, anche grazie al ribasso dei prezzi del petrolio e alla debolezza della domanda. Quest'ultima risente nel primo semestre del 2008 di una contrazione dello 0,3% da parte delle famiglie, che risultano più indebitate e vittime dei rialzi dei tassi di interesse e dei prezzi al consumo. Buone notizie infine sul fronte. Entrate tributarie crescono del 3,2% grazie a fattori straordinari come l'abolizione dell'acconto di fine anno dei concessionari della riscossione. Ora torniamo negli Stati Uniti, il paese sicuramente più colpito da questa crisi e che con la crisi fa i conti anche nella campagna elettorale, che ormai è arrivata agli sgoccioli. Il 4 novembre è davvero vicino e mercoledì Obama e McCain si sfidano nell'ultimo faccia a faccia televisivo. Il racconto di Sergio Nava. Good evening and welcome to the third and last presidential debate. Il terzo dibattito presidenziale Obama-McCain passerà alla storia come il dibattito di Joe l'idraulico. A renderlo una celebrità è stato il candidato repubblicano che l'ha nominato portabandiera della sua campagna anti-Obama. Joe the plumber. Il terzo confronto scontro tra i due aspiranti alla Casa Bianca si è risolto in maniera più vivace e meno soporifera rispetto ai primi due. McCain, in abissale svantaggio nei sondaggi, ha attaccato Obama sull'economia. In particolare ha preso di mira i suoi piani di cancellazione degli sgravi fiscali ai contribuenti che dichiarano oltre $250,000 l'anno, proprio il tema sollevato pubblicamente dall'idraulico e piccolo imprenditore di nome Joe. I want to cut taxes. Barack Obama ha contrattaccato, ricordando la sua volontà di abbassare le tasse al 95% degli americani e criticando l'assenza nel maxi piano di salvataggio preparato dall'amministrazione Bush di un progetto per la classe media. Senator Obama, I am not President Bush. È qui che John McCain ha preso la palla al balzo e ha risposto: io non sono Bush, se volevi candidarti contro di lui dovevi farlo 4 anni fa. Basterà il guizzo? Difficile dirlo. McCain ha chiaramente mancato il colpo del KO necessario a ribaltare una situazione disastrosa nei sondaggi, nel bel mezzo della crisi economica, e dunque Obama ad avanzare verso una storica elezione a presidente degli Stati Uniti. E per quanto possono valere commenti e sondaggi a caldo, il termometro del pubblico dice per la terza volta su 3 Obama, il senatore afroamericano, ha prevalso sia nei rilevamenti CNN che in quelli CBS, sfondando sempre quota 50% dei consensi. McCain ha vinto solo nelle opinioni degli esperti e dei commentatori che l'hanno giudicato più convincente rispetto all'avversario, ma è una vittoria che ai più appare di Pirro. Continuiamo ad andare avanti e indietro da una sponda all'altra dell'Atlantico, torniamo dunque in Europa, in particolare dalle nostre parti, perché in questi giorni c'è una nuova questione che si riaccende, molto delicata, tra l'altro soprattutto per il futuro di tutti noi, quella legata al clima, e ancora una volta si consuma una polemica tra Unione Europea e Italia. Da Bruxelles, Enrico Brivio. Battaglia delle cifre tra Bruxelles e Roma sui costi del pacchetto energia e clima. I've seen certain numbers, for example, in Italy. Il commissario europeo all'ambiente Stavros Dimas si è detto allibito del pessimismo in Italia sull'impatto delle misure contro il cambiamento climatico sul sistema produttivo nazionale. Ma il ministro dell'ambiente Stefania Prestigiacomo ha prontamente ribattuto che le stime citate dal governo italiano non sono allarmiste, ma provengono proprio dagli studi effettuati dalla Commissione europea. Per Dimas i costi per il sistema paese italiano sarebbero tra i 9,5 e i 12,3 miliardi, includendo però un gettito che potrà essere riutilizzato dal governo per investimenti ambientali. La Prestigiacomo ha però ribattuto che in uno studio della Commissione si parla di un costo di 181,5 miliardi tra il 2011 e il 2020 e di un costo annuo di 18,2 miliardi con un peso dell'1,14 sul PIL, mentre altre valutazioni a costi minori prevedrebbero esplicitamente che l'Italia non raggiunga gli obiettivi prefissati. Tra una scelta e l'altra, naturalmente, che compiono in questi giorni i governi e anche l'Unione Europea, ci sono poi in mezzo le banche e le borse che vivono un'altra settimana di passione. Quella che ora riascoltiamo è la cronaca della giornata di giovedì, una delle più importanti appunto a livello di borse della settimana. Paola Nania. I destini di Europa ed America per un giorno si dividono. Le borse del vecchio continente chiudono con perdite di diversi punti percentuali. Parigi meno 5,92, Londra meno 5,35, Francoforte meno 4,91. Il MIB della Milano perde il 5,75%. Pesa la paura di recessione, cioè che la crisi finanziaria si rifletta pesantemente sull'economia reale. Tornando a Piazza Affari, il titolo peggiore del listino S&P MIB è stato UniCredit meno 13%. Ma in serata arriva la notizia di un aumento degli investitori libici nel capitale dell'istituto, che diventano così i secondi azionisti. Operazione amichevole che soddisfa i vertici della banca e lo stesso mercato after hours, dove il titolo ha guadagnato il 6%. Destini separati, dicevamo prima, tra Europa e Stati Uniti. Wall Street apre positiva, inizia a scendere fino a meno 4%, recupera timidamente, poi lo scatto finale. Il Dow Jones chiude a più 4,68%. Lunedì. 7 giorni fa esattamente abbiamo raccontato la lunga lista, a volte anche accompagnata da qualche polemica, dei vincitori per i premi Nobel del 2008. Lunedì viene annunciato l'ultimo nome che manca, l'ultimo tassello. La scelta ci porta direttamente a riflettere sulla crisi economica di questi tempi. Anna Marino. Dalla prima edizione del 1969, il più giovane tra i premi Nobel è andato a 40 americani su 59 premiati in quasi 40 anni, il 69%. E anche quest'anno l'Accademia Reale Svedese delle Scienze conferisce a un americano, l'economista Paul Krugman, il premio di 1,4 milioni di euro per i suoi studi sui modelli di commercio. Autore di libri di testo sulle crisi valutarie e sull'economia internazionale, storico oppositore della politica di Bush, Krugman così definisce le responsabilità per la bufera finanziaria in un intervento del 19 settembre. È la crisi peggiore che abbia mai visto, la peggiore. Il sistema finanziario è fuori controllo e abbiamo bisogno di un governo migliore di quello attuale. Non è solo colpa di Bush. Punto il dito anche contro Alan Greenspan, ma in questa crisi abbiamo visto emergere la filosofia di questa amministrazione. Ed è il risultato di una strada imboccata negli ultimi 20 anni. Il neo premio Nobel, in anticipo di anni rispetto a quanto sarebbe successo con la crisi dei mutui, aveva più volte sottolineato che un sistema di libero mercato non è in grado di funzionare bene senza gli adeguati controlli. L'ottavo giorno. Martedì. In pochissime ore riaffiorano dalle nebbie del passato due fatti di cronaca molto celebri, molto efferati e che a lungo fecero discutere tutta l'Italia. Il primo episodio ci riporta in provincia di Verona, vi ricordate di Pietro Maso? Nel 1991 massacrò il padre e la madre per impossessarsi dell'eredità. Venne condannato a 30 anni, ma martedì il Tribunale di Sorveglianza di Milano concede la semilibertà a Maso, che oggi ha 37 anni. Sentiamo il servizio del corrispondente Antonino Padovese. Nel 1991 la sua storia aveva fatto il giro d'Italia e catturato l'interesse della stampa internazionale. Un 19enne benestante, autosportivo e una famiglia ricca alle spalle, aveva pianificato con 3 amici l'omicidio dei propri genitori. Con l'eredità avrebbe potuto mantenere e migliorare lo stile di vita che l'aveva già fatto emergere come leader di un gruppo di giovani della provincia veronese. 17 anni dopo la morte dei genitori, Pietro Maso ha ottenuto dal Tribunale di Sorveglianza di Milano la semilibertà. «Sono un uomo diverso», aveva scritto al vescovo e al suo padre spirituale che lo ha seguito nel cammino di fede. Oggetto di lettere da parte di giovani di tutta Italia che lo vedevano come un eroe, Maso uscirà definitivamente dal carcere nel 2015 grazie all'indulto. Nel 2007 i primi permessi premi e la foto scattata da una rivista di un bacio con una donna. Oggi, a 37 anni e 7 ancora da scontare al carcere milanese di Opera, è arrivata la semilibertà a lunga agognata. Le ultime notizie legate al caso Maso ci dicono che probabilmente andrà a lavorare all'Odi, nella TV di informazione religiosa Telepace. Intanto Montecchia di Corsara, che è il paese teatro dei terribili delitti di 17 anni fa, ricorda malvolentieri l'episodio e soprattutto spera che Maso non torni più da quelle parti. Aggiungo soltanto che la Procura di Milano ha 2 settimane di tempo ora per ricorrere in Cassazione contro il provvedimento di semilibertà. Ma c'è un altro secondo episodio di cronaca nera, nerissima, che fa parte peraltro della stessa casistica di quello di Maso per la serie Figli che uccidono i genitori, che torna prepotentemente alla ribalta, di fatto nelle stesse ore di Maso. Andiamo a Parma con il racconto di mercoledì fatto da Pino Colombi e subito dopo la voce dell'avvocato del protagonista di questa vicenda, Marco Moglia. Ferrando Carretta, l'uomo che 19 anni fa uccise padre, madre e fratello per poi sparire a Londra per quasi 10 anni, è tornato a Parma per riscuotere l'eredità dei genitori che ha ucciso, tornando in possesso dell'appartamento di Via Rimini e di 38.000 euro circa in contanti per un totale di 350.000 euro, apponendo la sua firma davanti al notaio. Continuo a pensare al fatto che la tragedia poteva essere evitata. Se mi fossi curato, quello che è successo non sarebbe mai accaduto. Con queste parole Fernando Carretta ha risposto ai cronisti che lo attorniavano. L'uomo, che vive a Forlì da circa 2 anni in una comunità terapeutica, spera di poter ottenere la libertà definitiva in tempi brevi, immaginando il suo futuro con un lavoro stabile, ma anche con una famiglia. Carretta ha anche detto ai cronisti di non voler tornare ad abitare a Parma, ha infine spiegato di pensare spesso ai suoi familiari e che il fatto che i loro corpi non sono mai stati ritrovati rappresenta per lui un peso enorme. Il rimorso è ancora grande, ma quello non potrà mai essere cancellato. Quello che chiede oggi Ferdinando Carretta è di fare una vita in tutta serenità, dimenticando la vicenda giudiziaria che lo ha visto protagonista in questi anni e direi lontano dai riflettori, lontano dalle telecamere. Mercoledì. Uccideranno Saviano e la scorta prima di Natale. Il messaggio è inequivocabile ed è di un pentito di Camorra, messaggio rivolto alla Procura di Napoli, che naturalmente parte subito con le indagini su queste parole di fuoco. Destinatario Roberto Saviano, lo scrittore diventato famosissimo, ma anche molto sgradito ai clan camorristici dopo il successo del suo romanzo Gomorra, nel frattempo è diventato anche un grande film. Sentiamo i dettagli nel servizio di Paolo Piacenza. Il gruppo stragista che guida il clan dei Casalesi avrebbe deciso di uccidere lo scrittore Roberto Saviano e la sua scorta entro Natale. Questa rivelazione, a cui gli inquirenti stanno cercando di dare conferma, è stata fatta pochi giorni fa dal pentito Carmine Schiavone, cugino e omonimo del boss Sandokan, ed è quindi giunta a conoscenza dei magistrati della direzione distrettuale antimafia di Napoli. Le misure di sicurezza intorno allo scrittore, che vive sotto scorta dal 13 ottobre del 2006, sono state rafforzate, anche se Saviano ha ribadito: per me non cambia niente, l'importante è tenere la testa sollevata. Resta la preoccupante coincidenza con un'altra informazione resa agli inquirenti da Oreste Spagnuolo, uno dei tre killer arrestati per primi per la strage del 18 settembre scorso. L'uomo che sta collaborando con la giustizia ha infatti riferito che Giuseppe Setola, boss della frangia stragista dei Casalesi, a cui vengono attribuiti sia la strage di Castelvolturno che molti recenti omicidi, era in cerca di esplosivo e detonatore. Diceva, ha riferito Spagnuolo, che era un modo facile per uccidere. Saviano risponde subito a questa storia, le sue parole sono comprensibili, anche se tristi per tutti noi e per il nostro paese. Dice di fatto: andrò via dall'Italia, voglio una casa, voglio innamorarmi, bere una birra in pubblico, ho soltanto 28 anni. Riascoltiamo ora gli sviluppi delle indagini nel servizio di Raffaella Calandra e poi un'analisi di Daniele Biacchessi, che ci ricorda che ci sono tanti altri giornalisti come Saviano che rischiano la vita per le loro inchieste e che vivono sotto scorta. Questo scrittore la deve finire. La minaccia contro Roberto Saviano porta la firma del superboss dei Casalesi in carcere, Francesco Schiavone. Dopo le sue dichiarazioni al Festival di Mantova, con un fax al legale, Sandokan ha messo nero su bianco la condanna a morte per l'autore di Gomorra. A origine da qui, dunque, da Sandokan e non dal cugino Carmine Schiavone, già collaboratore di giustizia, l'indiscrezione su un piano per uccidere lo scrittore che ha sfidato la Camorra. Sentito in tutta fretta dai PM di Napoli, il pentito ieri ha infatti smentito di aver parlato di un progetto di un attentato contro Saviano, né di esserne a conoscenza. Lo ha ripetuto in una località segreta, e in un'altra località segreta lo scrittore medita di lasciare l'Italia, mentre si susseguono gli appelli perché resti. È un patrimonio di legalità, ha detto il presidente del Senato Renato Schifani. Di sicuro ora Saviano è anche un patrimonio dell'arte presepiale di Napoli, che gli ha dedicato una statuina. Roberto Saviano, l'autore di Gomorra, non è l'unico cittadino italiano nel mirino dei boss criminali. Nel nostro paese vivono sotto scorta o subiscono pesanti minacce cronisti giudiziari, scrittori, imprenditori, magistrati. Ad esempio c'è Lirio Abbate dell'ANSA e il nostro collega del Sole 24 Ore Nino Amadore. Ci sono tanti giovani cronisti di Nera, direttori di periodici in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, che vivono nella paura di attentati. La strategia delle cosche mafiose è chiara e viene da lontano. Prima i boss minacciano in modo pubblico e mediatico, come nel caso di Saviano. Poi passano al tentativo di delegittimazione, come quello subito da Lirio Abbate. Infine si arriva alle maniere forti. Ma la società politica e civile non può restare fuori dalla mischia, perché non è in corso una guerra privata tra singoli cittadini e le mafie. I modelli positivi esistono: Confindustria Sicilia, che espelle dall'organizzazione gli imprenditori che pagano il pizzo, e migliaia di giovani impegnati in associazioni del volontariato che difendono i valori della legalità nel sud. In passato, nella solitudine, la mafia ha colpito De Mauro, Alfano, Fava, Impastato, l'imprenditore Grassi, magistrati e giudici Falcone, Borsellino, Livatino, Chinnici, generali dei carabinieri come dalla Chiesa, poliziotti, carabinieri, singoli cittadini. Il nostro dovere è dunque non lasciar solo chi combatte la mafia, perché è una battaglia che riguarda ormai tutti. Le ultime parole pronunciate per il momento su Saviano sono del ministro Maroni. Ieri ha detto: Saviano è un simbolo, ma non il simbolo della lotta alla Camorra. Mi auguro che resti in Italia, andare via non mi sembra una buona idea. E poi ha aggiunto: la lotta alla criminalità la fanno polizia, magistratura, imprenditori, che sono in prima linea ma non sono sulle prime pagine dei giornali. Credo che queste parole, comunque si leggano, susciteranno delle polemiche. Come invece ha ricordato il servizio che abbiamo appena riascoltato di Daniele Biacchessi, ci sono tanti altri Saviano sparsi per l'Italia, soprattutto nel Mezzogiorno. Uno di questi è Lorenzo Diana, ex senatore, vive in provincia di Caserta, esattamente a San Cipriano d'Aversa, ed è sotto scorta da 13 anni perché ha fatto denunce contro i casalesi. Risentiamo la sua testimonianza ai microfoni di Radio 24. Vado a San Cipriano ed è ovvio che non hai più la libertà di movimento di una volta. Sono 13 anni che praticamente non vado più a piedi. Mentre prima mi capitava di attraversare il corso principale, di fare quattro passi, di avere tante persone si fermassero a salutare, a parlare, oggi capita molto molto meno. Perché lei non può camminare, ma se lo fa la gente come generalmente come reagisce? C'è una parte che si avvicina a salutare, a parlare, c'è un'altra parte che in strada non ha da far vedere di avvicinarsi a chi contrasta la camorra. Io vorrei dirle questo, anche a San Cipriano, a Casal di Principe, nella metà degli anni 90 c'è stata una forte reazione civile, grandi manifestazioni, marce anticamorra, c'era stato un movimento intorno alle parrocchie che espresso la figura di Don Peppe Diana ammazzato dalla camorra, quasi mentre si accingeva ad andare sul proprio altare per la messa, e in quella fase i cittadini di questi territori fecero vincere coloro che si opponevano alla camorra, perché allora si vide che lo Stato faceva sul serio. Oggi la popolazione è convinta che lo Stato e la politica non facciano ancora sul serio. In questo viaggio che potremmo definire al termine della notte, tra le pieghe dell'illegalità e della malavita che contamina l'Italia, arriva un'altra storia in questi giorni e riguarda Lina Wertmüller a Taranto per girare il suo nuovo film Mannaggia alla miseria. Alcuni uomini sembra che abbiano chiesto una tangente di 50.000 euro e minacciato la troupe. La conseguenza è che la produzione del film decide di proseguire le riprese da Taranto a Brindisi. Questo è il commento della stessa Wertmüller. La cosa che può succedere dovunque, a New York, ma è successo anche a New York una volta. Certo, quando vengono le truppe a girare è importante che ci sia quel tanto di, diciamo, aiuto, di protezione, ma è stata una cosa imprevista, probabilmente è stata anche colpa nostra, perché abbiamo girato in un luogo dando fastidio, doveva essere un luogo di smercio di droga. Allora il discorso è un altro, allora bisogna aiutare quelli della droga perché vendano tranquillamente per non avere fastidi, no? Bisogna dire che per fortuna, nonostante le minacce quotidiane e la paura dilagante, la lotta alla criminalità continua. Ieri ad esempio a Scampia è stato arrestato il capo clan Tommaso Prestieri e anche alla 'Ndrangheta vengono inferti in questi giorni colpi durissimi. Sentiamo il commento di Roberto Galullo ieri mattina. Super tecnologico spartano che fosse, è caduto un altro bunker della 'Ndrangheta e con lui Antonio Pelle, capocosca calabrese, tra i 30 latitanti più ricercati d'Italia. L'arresto nella notte tra il 15 e il 16 ottobre, avvenuto a pochi passi da casa in un rifugio scavato sotto il capannone di uno dei tanti fiancheggiatori, liberi e insospettabili, non è stato casuale. Ieri, infatti, a pochi chilometri dal luogo in cui Pelle è finito in manette, lo Stato e la politica hanno ricordato a Locri Francesco Fortugno, vicepresidente del Consiglio regionale calabrese, ucciso dalle cosche esattamente 3 anni prima in un seggio elettorale. È stata la risposta di uno Stato presente. La repressione di investigatori e forze dell'ordine, nonostante i vuoti in organico e le scarse risorse finanziarie, è al massimo livello. A questa catena di resistenza alle mafie manca però in Calabria un anello fondamentale, come hanno dichiarato il procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso e il capo della Procura di Reggio Giuseppe Pignatone: la reazione della società civile. Senza quella, la repressione non basta. L'ottavo giorno. Giovedì. Adesso dobbiamo fare i conti con un paio di scandali alimentari che sono così piovuti dal cielo. Uno arriva direttamente dalla Cina, l'altro è tutto italiano. Cominciamo dalla Galbani, che si trova improvvisamente al centro di una bufera bella grossa. La scoperta è di Repubblica, il quotidiano infatti mette le mani su un esposto di alcuni dipendenti della Galbani di Perugia e nella denuncia si parla di merci scadute immesse comunque sul mercato modificando la data di scadenza, e non soltanto, ci sono altri dettagli che riassume questo servizio di Roberta Pellegatta. Tutto ha inizio da una denuncia da parte dei dipendenti del magazzino di Perugia della Galbani. Alla procura portano le prove, fatture, fotografie, registrazioni come questa. Allora, adesso dico una cosa perché potrebbe far male molto molto molto male a Galbani, perché È possibile che il manager autorizzi con la cetona a scancellare scadenze e rimette il timbro Channel no, Kit? No, quello è possibile che ci sono, criminale. È possibile che dentro i furgoni ci sono merce scadute da 5-6 mesi? Cioè c'è l'acetone. Acetone, che come avete sentito serve a cancellare le date impresse sulle confezioni di mozzarella, ricotta, pecorino, salumi, che possono così essere rimessi sul mercato, anche da scaduti, con un nuovo timbro. Una pratica che andrebbe avanti da anni, almeno dal 2000, nel deposito umbro della Galbani. I lavoratori avevano denunciato il sistema già 3 anni fa al capo del personale, da lì i controlli. La Galbani manda a Perugia un ispettore che verifica la qualità della merce in deposito, la ritira, se scaduta, dai negozi. Ma poi niente, qualcuno riparte col trucchetto. I dipendenti parlano anche di carenze igieniche, di merce stivata fuori dalle celle frigorifere, a volte parcheggiata nei garage, e lo fa adesso con questo esposto in procura. Una denuncia pesante per un'azienda come la Galbani, la prima marca di formaggi italiani nel mondo, 4 stabilimenti, 80.000 clienti, da 2 anni proprietà di Lactalis, gruppo caseario leader in Europa, che possiede anche Invernizzi, Locatelli e Cademartori. Melamina, un nome che è diventato familiare in queste ultime settimane, che è anche diventato tristemente famoso per lo scandalo del latte contaminato dalla Cina. In effetti poi, seguendo da vicino le vicende di questo scandalo, schegge impazzite di questa brutta storia sono arrivate un po' in mezza Asia e anche in mezza Europa. Giovedì lo scandalo approda persino qui da noi in Italia. Quintali di latte alla melamina dalla Cina vengono sequestrati dai NAS a Napoli. Sentiamo sul tema l'intervista che Valeria De Rosa ha fatto al ministro dell'agricoltura Zaia. È inquietante, sì, però bisogna anche diffondere tranquillità e dire ai cittadini che la tutela della sicurezza alimentare passa anche attraverso buone abitudini alimentari. Comprare prodotti in stagione, prodotti del territorio, e quindi premiare la nostra agricoltura significa avere la certezza assoluta della qualità e della sicurezza alimentare. Ministro, per quanto riguarda invece il caso di formaggi scaduti e poi messi nuovamente sul mercato, qual è il commento da parte sua, da parte del suo ministero? Guardi, il mio commento è che noi siamo qui e abbiamo ragione di esistere perché difendiamo la nostra agricoltura e il lavoro degli agricoltori seri. Quando sarà dimostrato che questa azione non corrispondente alla legge sarà una realtà, perché dovrà rispettare ovviamente il lavoro dei magistrati, degli inquirenti, penso che queste persone dovranno essere punite in maniera clamorosa. Venerdì. Giornata di disagi e giornata di proteste in tutta Italia. Lo sciopero che paralizza i trasporti urbani si intreccia con la protesta contro la riforma della scuola del ministro Gelmini. A proposito di scuola, in questa settimana c'è anche la mozione della Lega che vuole una valutazione per gli studenti stranieri che, se poi non passeranno i test, dovrebbero frequentare delle classi ponte. Questa è una mozione che crea naturalmente molte discussioni, divide destra e sinistra e soprattutto innesca un complesso dibattito sul tema dell'integrazione. Ma torniamo alla caldissima giornata di ieri, il riassunto di Francesca Malaguti. Traffico intenso, ritardi, centri cittadini congestionati. Sono gli effetti collaterali delle agitazioni che oggi hanno investito tutta Italia. Mezzi pubblici a singhiozzo per lo sciopero dei sindacati autonomi di base, che ha riguardato anche i trasporti ed è sfociato in un corteo a Roma per protestare contro la politica economica del governo e i tagli a università e scuola. Contro la riforma Gelmini, manifestazioni anche in altre città, da Milano a Torino a Palermo. E anche a Roma erano tante le scolaresche accompagnate da genitori e insegnanti. Quest'anno, dopo tanti anni di incarico, zero. So per la strada. Cosa sono queste teste mozzate? Sono le prime teste che so cadute con la riforma Gelmini. Riformando le elementari già di fatto ha tagliato i posti di lavoro. I cori e gli slogan erano rivolti soprattutto ai ministri Brunetta e Gelmini. Dopo l'arrivo della manifestazione in piazza San Giovanni, gli studenti universitari hanno lasciato il corteo e si sono diretti verso il Ministero dell'Istruzione, dove hanno gridato il loro no ai tagli. Quest'ultima settimana politica invece non ha risolto un altro doppio rebus che si trascina ormai da settimane e che, come ha scritto ieri Massimo Franco sul Corriere della Sera, rischia di delegittimare il Parlamento e forse anche il governo, che finora si è segnalato per un certo decisionismo. I veti incrociati tra maggioranza e opposizione fanno ancora slittare la nomina del presidente della Vigilanza Rai e di un giudice della Corte Costituzionale.